Isola Sarda, cambio. Attenzione Napoli, ascoltate l'isola Sarda che chiama, cambio. Canale 10, canale 10, ascoltate l'isola Sarda, cambio. Attenzione 10. Hola, attenzione 10. Attenzione Scugnizzi, sulle valvole avanti, Rupo Russo. Chi è? Sono Gianni Doppio Russo, avanti. Non ho capito, ti sento basso basso. Ma sto uscendo in trasmissione? Sì, sì, Claudio. Sto uscendo, bene, normale. Malissimo, va bene. Cos'è aggiustato, la M? Sì. Però la ricezione è sempre scarsa, ma quella è una cosa, adesso mi interessa la trasmissione. Sono senza processore, dimmi se funziona anche il processore, così è senza e così è col processore, funziona? Tutto ok Claudio, tutto ok. Perfetto, allora aspetta lo spacco perché ancora non sono arrivato lì. Quindi segnale buono, radio buona? Sì, va, tutto ok, qua va bene. Quindi ci abbiamo anche la M, va bene, va bene. Piano piano, piano piano riesco a non metterlo a posto tutto, però il problema è che non so dove sono, è sempre fermo sul lock, bloccato, perché se lo sposto è un casino poi a trovare la frequenza. Dai, segnale già, non ce n'è. Quello adesso, se la M funziona, la tengo sotto controllo e vediamo di andare dalla parte dello smitter a vedere. Oddio, se riesci a farlo funzionare tutto, poi magari è una cazzata il fatto del frequenzimetro, magari si è interrotta la corrente lì per qualche componente che è andato in perdita, roba del genere, basta cambiare quello e si appuccia. Sì, sto controllando tutta la parte delle tensioni, adesso piano piano ci arriviamo anche lì. Adesso non c'è la tensione, era zero la tensione della M. C'ho il computer acceso con tutto il diagramma, tutto lo schema. Va bene, va bene. Cosa le hai fatto per la M, Claudio? Le tensioni. Le hai fatto le saldature di nuovo? No, le tensioni, era tutto senza tensione, tutto a zero. Non arrivava tensione. Dico, per ripristinarlo che cosa hai fatto? Ho ripristinato le tensioni, ho rimesso le tensioni tutte come erano, ma l'ho lasciato 24 ore acceso per recuperare qualcosa sui condensatori. È 8 anni ferma la sta radio, ma dentro è immacolata, nuova, un peccato. Piano piano già ne tolgo più, non ne ho fretta. Chiamo a pento buru io, anche se non ho strumentazione, non sono così cretino. C'è un bel di propagazione oggi. Ho parlato con Napoli, con la Liguria, un sacco di posti. Ti ho sentito poco fa, ti ho sentito che stavi chiamando qua sul 10. Però stavo facendo altro, capito? Fanno male anche gli occhi, non è? Posso stare tutto il giorno. Ho fatto un paio d'ore stamattina e un paio d'ore stasera. Adesso c'è un po' più di fresco, ma prima non si poteva respirare. Mamma mia, c'era uno scirocco, manco giù si poteva stare. Si è sceso col cane a luna, non si può dire sta. No, io non l'ho portato a luna. È tutto il giorno al ventilatore attaccato, adesso gliel'ho spento. Sta ancora riposando, poverino, però ho aperto la finestra perché adesso sta girando un po' di aria più fresca, capito? Però era tutto chiuso qua, per mantenere la temperatura interna, vai. Va bene, va bene. Adesso devo vedere di far andare il frequentimetro. Le tensioni, no? Non li ho ancora controllati, li vediamo dopo. Se ne ho voglia, se no domani. Adesso lo tengo un po' in funzione in AM, vediamo come va. Mi senti in basso di radio, così è. Magari... che adesso la colonnina funziona bene, per le altre frequenze diciamo in FM si sente bene. Basso di radio, sei fortissimo. E lo smitter che non sale, non ti posso dare il segnale. La ricezione è perfetta, sia in FM, adesso anche in AM. Però non sale il segnale, capito? Il segnale rimane a zero in ricezione, mentre in trasmissione adesso vedo anche i picchi positivi, sono a, perché lo sto tenendo basso, sono a 5 watt, 8 watt e sta andando intorno ai 15-20 modulati, capito? Sì, sì, ho capito. E vabbè, piano piano, per 100 euro ne guadagni altre 300. No, questo non lo devo vendere. dovevo regalare a Massimiliano Bulldozer. Ah, vabbè, è un bel regalo, dai. Beh, lui me ne ha fatto tanti, tantissime cose, sempre presente, ogni volta che lo chiamo, ogni volta che ho bisogno di lui, io sono sempre presente quando mi chiama lui, e quindi è una persona che ci tengo tantissimo. Non mi interessa vendere niente, io ce l'ho il mio, c'ho anche il 430, cosa leggeva, non mi dice venire in altro, grazie a Dio. Però voglio togliermi la soddisfazione di farla io, sino a dove arrivo, ripeto, attenzione, sino a dove arrivo. Dove non arrivo mi fermo, perché la tecnica e la competenza è una cosa, l'orgoglio è un'altra. Quindi per il momento sto andando avanti piano piano con le mie capacità, su quello che capisco, su quello che mi hanno insegnato, su queste radio. Quello che non riesco a fare lo lascio fare agli altri. Infatti, dove arrivi, ma se gliela dai già con meno difetti, già meno soldi da pagare ci sono, se la fai aggiustare, capito? Se gliela dai con mille difetti ti fa pagare per aggiustarla. Gliela dai con un difetto solo, va lì, mirato lì e basta, in quel punto dove non fa tipo il coso, il frequenzimetro, mirato lì e vede praticamente che cosa è. Perché te l'ha detto, basta una piccola resistenza, una piccola cosa che interrompa il circuito, non si accende, capito? Sì, infatti secondo me, per quel poco che ne capisco, il frequenzimetro è legato anche allo smitter, perché uno è spento, l'altro non sale, quindi lì bisogna vedere. Il problema è il frequenzimetro, c'è da smontare tutto il frontalino, quindi devo avere proprio calma, pazienza, giornata fresca, ad aprirmi la finestra, perché ripeto, c'ho il tavolino messo proprio di fronte alla finestra, alla luce, con il farettino acceso, proprio per vedere bene tutto. Non c'è un condensatore scoppiato, perlomeno. Scoppiati non ce n'è. Che ci siano condensatori in perdita, su questo non ci piove. Qualche altra cosa c'è, però non è che ha grandi danni. Peccato, se lo tenevano acceso e lo usavano o lo toglievano da quel cazzo di barca e se lo portavano a casa, era una radio recuperabile, è recuperabile adesso, ma era già recuperabile anche da prima. Beh, ma il proprietario è morto, non c'è più il proprietario? No, non c'è più il proprietario. La barca era ad Olbia, in un cantiere navale, in vendita, con tutta l'attrezzatura dentro. Capito? Siamo andati a togliere tutta l'attrezzatura, abbiamo tolto anche questa, e quindi la barca è stata venduta. Capito, e magari se ne sono un po' fregati perché non c'era lui vivo e certa gente non ci pensa nemmeno, capito? Magari i parenti un po' se ne sono fregati, anche perché si deteriora la roba per lasciarla così ferma. È peggio che usarla. Sì, vabbè, questa in particolare, perché lui è un radioamatore, infatti c'ha il filtro CW anche, ha il filtro CW che a me non interessa, se ne avrei tolto, c'ha il filtro SSB, il filtro CW, no, famiglia, cosa, non ha sposato. Questa è radio in particolare, ma qualsiasi ricetrasmettitore così, capito, tu lo lasci 8 anni lì buttato dentro questo cassone, questo coso fatto apposta per mettere la radio dentro, infatti l'ho tolto i piedini da sotto, adesso li ho rimessi perché c'avevo qualcosa io, li ho rimessi i piedini, la maniglietta, li avevano tolto, li ho rimessa, quelle cose lì ce le ho. Qualche pezzo così ce l'ho, non tante, ma ce l'ho. E mentre invece l'ecoscandaglio, tutta la strumentazione di bordo referente alla navigazione, quella l'hanno accesa ed è funzionante al 100%. Perché è funzionante al 100%? Perché sono delle cose che vanno in barca, quindi non hanno problemi di salsedine, sono stagne, hanno un altro tipo di resistenza. Queste non sono radio da lasciare in barca, capito? Beh, quelle hanno le protezioni, c'hanno guardizioni, c'hanno per tenuta stagna, lo so. vabbè, qua, quello che si può si fa. Poi rimodulando stesso, vedi che si accende, te l'immagini, magari scaldando, tante volte quando scaldano si riprende. Capito? Sì, l'ho accesa 24 ore, da ieri è acceso, e stamattina il display è ancora spento. Adesso quando arrivo da quella parte lì, piano piano, vedo, se la tensione c'è, lì vuol dire frequentemente da sostituire. È rotto, perché ho la vaga impressione che abbia preso qualche colpo, non si vede niente, però il VFO era inchiodato completamente, ho dovuto tutto smontare il pomellone, agire dall'interno, piano piano, spruzzare dello spray, muoverlo, piano piano sono riuscito a sbloccarlo, adesso è perfetto, va bene, la ghiera stringe e allarga come il mio, ma prima era tutto bloccato, capito? Tutto bloccato. E ho messo anche del grasso di vasellina fine, proprio all'interno dove gira il pistoncino che mantiene il VFO, ed è bello ordinato, dai. No, peccato perché è nuova, c'è un frontalino nuova come la mia. I case, i tappi li faccio verniciare da Roberto, quello del suo originale, vado alla Maxi Meyer, faccio fare la vernice uguale, ho la Upas col coperchio e li faccio verniciare, quello è l'ultima cosa, l'importante è che stia funzionando. Ha fatto qualche difetto? Niente? Sempre ottimo? No, non ha fatto nessun difetto, se te l'ho vedete. Guarda che c'è praticamente un colorificio a predanida che la vernice te la mette anche in bomboletta, se vuoi farlo tu te la puoi fare tu, ti mette la vernice, ti fa la vernice e te la mette in bomboletta. Io l'avevo comprata per la moto, me l'aveva detto Masala dove andare a comprarla, perché mi avevano graffiato la moto e non è più di una vita, è uscita bene. Sì, lo so, me l'ha detto anche Roberto. No, non le faccio io, no. Io a lui faccio fare al forno, spruzzare lì, faccio fare una cosa fatta bene, quando è tutta finita però, perché si tappi, li togli, li metti, li appoggi giù in terra, non me l'ha tenuta. Quando è tutta finita c'ho una ventina di viti nuove, sempre di queste radio qua, diciamo non originali, ma della sua misura, piccole così, luce, quindi metto tutte le viti nuove, il gancio di sotto, quello che sollevano, quello in acciaio, quello ferrocromato, quello ce l'ho, anche gli agganci ce l'ho, che li avevo tutti da una radio, capito? Quindi quelli li ho messi. La maniglia non è della Kenwood, della Ico, ma è uguale, stessa misura, non è che c'è scritto Kenwood o Ico, è una maniglia, e quella ce l'ho lo stesso, ma quelle sono cose che vedo dopo, adesso mi interessa che la radio funzioni come deve funzionare, dai. Piano piano, vediamo se la ventola è entrata in funzione, la ventola, l'ho rismontata, è più silenziosa di ieri. Va bene, dai, piano piano. E a pinzelli, dai, ti sta vedendo l'Alzheimer. Già, io non è che sono tecnicamente preparato come qualcuno, perché non è il mio lavoro, però queste cose così già me la cavo, dai. Già me la cavo, senza fare grandi cose, però ho un po' di esperienza su queste radio. Adesso vediamo, non ci sono cose che mi possono mettere in difficoltà, l'ho presa a puntiglia perché secondo me sono tutte cose leggere, capito? Leggere, tensioni, spinette magari che non sono attaccate bene, con corrose, ho pulito tutta il circuito stampato con la trilina, stamattina sono stato a quest'amico, mi ha fatto dare una bottiglietta di succo di frutta di trilina col pennellino, tutta lavata, lasciata asciugare, poi rimontata, sono tutte cose che prima devi vedere e fare, poi se ci sono componenti da cambiare si cambiano, perché io non ne ho di saldatore ad aria e attrezzatura come può avere Fabrizio e altra gente, capito? Quindi io faccio quello che devo fare e poi ci sono da cambiare i componenti, che sicuramente ci sono da cambiare, loro me li faccio sostituire. Ma sono fa sempre così, a meno da fare, dai. No, io invece devo regolare il watt delle, come si chiama, della LAN 48, perché mi dà troppo poco, praticamente da 0,2 che sarebbero 2 watt, sale solo sino a 10, di solito vanno a 20. E qua quello modificato come il mio, lì devi consultare a Massimiliano e te lo fa fare in diretta, come ha fatto Daniele, oppure a Gigi, io non lo so perché il mio l'aveva fatto Gigi, capito? Però anche Massimiliano sa dove mettere le mani su quella radio, perché ne ha avuto tante. A Daniele le ha regolata lui quella 48K. Pagava. Perché ogni tanto se ne vanno, capito? Devi regolarle queste radio qua, perché se no se ne vanno un po'. No, la mia ha la regolazione dei watt. La regolazione dei watt va da 2 watt e mezzo sino a 12 watt, 12, 15, una classe non mi ricordo, 12 o 15, poi quando parlo supera anche i 20. Comunque come radio, come mi ascolti? Va bene? Ora, fichi positivi ciò. Se non li vengo, se lo smette non funziona, la radio è bellissima, è uguale, è sempre la stessa, però non ti posso dare, non si muove lo smitter già. No, me l'ho ricordato, chi sa meglio di chi sa amico mio, ero a vedere con un amico mio che è non vedente, e gli ho detto dipende dai punti di vista, e lui mi ha detto io vengo tutto niente, da me non lo gioco come ti vedi tu. Questo chi è? Questo dalla voce, Roberto, tu sei a Gianni stai dicendo, io invece come ti sto arrivando, sono riuscito a ripristinare anche la M, però non ho smitter, non ho frequenzimetro, non ho niente. Ma Robè? Sì, beh, ce lo sto usando pochissimi watt, senza il processore, vedi un po', anche lì a distanza, allora processore eccolo qua. Ecco qua, così è inserito il processore, agisce? Guarda, il mio di segnale, quando ti arrivo di segnale di Alghero? Tu arrivi 5 qua, segnale 5. E deve essere una zona un po' nascosta per me forse. Ma si è agganciato già? Guarda così se c'ho picchi positivi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Così? Oh, vabbè, picchi però sono positivi, confermi? Ma l'ha coperto la propagazione. Sì, ti ho detto che sono positivi. Arrivi 4, liscio e 7 attaccato, va bene. Oh Robè, io sto andando con 5 watt, mi hai detto già da 7, 8 e mezzo, non ho capito, o 7 o 8 e mezzo. Allora, vediamo un pochino se non scoppia tutto. Quindi siamo a, aspetta in scala, questa scala 20, non arriva neanche. Mettiamo in scala a 200 e diamo appena un po' di più di potenza. Ecco qua. Ehi, che aspettania di potenza. Allora Robè, 40 watt modulati 70. Hai visto, allora già ce l'abbiamo la potenza, dai. Aspetta che lo rimetto com'era. Eccolo qua. Sì, mi sembra che era così, era giusto per provare. Quindi la potenza c'è, Robè, c'è. E anche tu c'è 9 abbondante. 9 abbondante. Vabbè, sai che io per Alghero non faccio test. Va bene, va bene. Avanti Gianni, dai, una ventola, devo tenere, scusate, si sente perfettamente, ok, vai già. Adesso mi prendo il coso e lo faccio, mi prendo il circuito e me lo faccio. faccio con la volo dei watt? C'è troppo basso di watt. Ma la regolazione ce l'hai dei watt, quindi non hai problemi quando attacchi lineare dopo. Devo fare, devo provare tutto, no? Proprio in una maniera, nell'altra, nell'altra, prima di chiuderlo. Avanti chi ha detto di dove siete, ragazzi? Qui è la Sardegna che modula per te, avanti. Io sono la Italia Auto. Papa Agostino, dai, ti ascoltiamo abbastanza bene, dai, ti passo l'amico Claudio, avanti. Non ho capito, Agostino, sei un Italia 8, e cosa ci fai qua nella 3x9? In 11 metri cosa ci fa un Italia 8? Che ciao, buon pomeriggio. Io sono Partorito, mi hanno preso 1967 della grande isola della Sardegna, una braccione 73. Ok, ti saluto e ti abbraccio, ragazzi, grazie di avermi risposto. Per cuore hai Italia 8, l'operatore Agostino ti spara. Pappa Italia 8, dai, un abbraccio fortissimo da tutti i due della Sardegna. Avanti, Claudio. Non l'hai finito, non ci ho fatto fine, manco di parlare già. Ciao Agostino, buonasera, Italia 8, molto bene. Noi invece siamo IS0, o perlomeno io sono IS0. Il resto non te lo dico, va bene. Roberto, riprendi. Per la privacy, anche lui ha detto Italia 8, quindi io sono IS0 e basta. Ok, va bene, ciao Agostino, grazie del ristacco al processore, perché le cose vanno fatte piano piano, non si sa mai che ci sia qualche cosa da rivedere, va bene anche così. Chi è che ha detto Italia 1? Non mi ascolto bene, perché alla prossima occasione provocazione per me stessa dalla Italia numero 8, l'operatore Agostino. Ciao, ciao Agostino, non ti posso dare il segnale perché no, sono al buio con questa radio, una radio in riparazione, sono al buio, quindi non ti posso dare niente, non mi devo spostare un millimetro, sono fermo con l'occhio, altrimenti vado a punta di casino. Non ho capito chi è che ha parlato, Italia 1, chi sei? Stai uscendo malissimo, perlomeno io ti sento male. Gianni, hai sentito qualcosa tu? Negativo. C'è uno che ha detto Italia 1, però non vedo il segnale, non so chi sia, non capisco niente. Avanti, Robert. Chi si va a recca? Allora qua sa se ne esercita. KK. Eri a lavoro oggi, di servizio? Io ti ascolto sempre. Santiago 5, Radio 3. Ti ascolto, ma diciamo non fortissimo, ma in mancanza di QRM ti ascolto bene. Là. Addirittura. Vabbè. Stavo dicendo, chi è che vuole entrare? Avanti. Cappa, buonasera, ero di passaggio, l'ho sentito, per i saluti, dai. Massimiliano, non ti posso segnare. Mi stai ricevendo bene, Massimiliano? Sì, sì, alla grande. Però perché così? Così come? No, è il solito, dai. Non c'hai sicuramente il processore inserito, giusto? No. L'ho inserito, l'ho disinserito, perché ancora non sono arrivato alla parte lì del processore, devo vedere tante altre cose. Sono sempre al buio, nel smitter. Lo smitter funziona solo in trasmissione, non in ricezione. Frequenzimetro spento, oggi sono riuscito a far andare anche questo. Abbiamo provato anche la potenza, va bene. Sono a neanche 10 watt. Va bene, fammela bene, dai. Che c'è ancora? Perché io proprio acceso di passaggio ho sentito solo te e così vado a farmi la doccia, era giusto per salutarvi. Ciao Massimilia. Cappa, ciao Gianni. Sono io e c'è Roberto D'Alghero, dai. Non lo so, io per Alghero sono un po' negativo, non so se mi ascolta Roberto, lo saluto con la buonasera. Sì, ciao Roberto, Massimiliano da questa, dai, ti ascolto, Santiago 4-5, un po' bassino, dai. Io sono cubitricato, febbre, influenza, raffreddore. Riprendi tu e vado a farmi una bella luce, no? Pagava. Un secondo Claudio, che mi assento un attimo. Eia. Aspettate un attimo che mi squilla il telefono. E avanti, che stai uscendo, anche bene. No, è che mi stavo assentando e stavo andando, vabbè, lo faccio dopo. Non c'è problema, perché ho sentito chiamare, sono tornato indietro. scusa, si è assettato un attimo lo stesso. Chi è? Sono in riserva. Prova un po' a parlare, se ti sento, che tu sei quello che ieri in FM arrivavi basso basso, vediamo. Vabbè, siamo in AM, ti sento, il segnale non te ne posso dare, però sento la voce abbastanza squillante, dai, va bene. Stai usando come apparecchio adesso tu? Bello forte, sì, bella voce. Chiaro, bello chiaro. Antu, vabbè dai, se lo lascia perdere va. Oh, Antu, ricordi quant'è la... riesco a trovare la tensione che deve arrivare al frequenzimetro di questa radio? Sai quanto era la tensione della M? No, sul primario, a zero. Ma pensavo che... dandole la tensione giusta, perché quella dell'FM era leggermente più bassa e l'ho regolata, adesso va bene, sono tutte e due uguali. Però pensavo che dando la tensione giusta al primario, in pratica mi desse anche sulla parte del ricevitore, invece un'altra cosa quella. Tu il microfono lo stai usando? È uguale a quello che ho io, uguale a questo, vai. Cosa stavo dicendo? No, io sto andando col 50, non sto andando col 60. Tanto sono senza processore, quindi. Stavo dicendo, Antò, cazzo, ho controllato tutti i condensatori, tutti, con la lente di ingrandimento, cazzo, non c'è nulla scoppiato. Ma, scusa, quando non funzionano si scoppiano, si aprono, dove c'è la X, la croce, si sollevano, sono tutti piatti. Ho capito. Vabbè, ma il elettrolita lo devo vedere io. È completamente pulita la radio, una cosa favolosa veramente. Vabbè, continuo a lavorarci così piano piano. Tanto devo ripristinare le tensioni piano piano, adesso appena arrivo al frequentimento. Non riesco a vedere quanto è. Comunque, vediamo quanto mi dà prima di tensione. Comunque deve dare almeno 8 per poter accendere, no? E mi sembra che non ci sia molta variazione. Vabbè, piano piano, adesso l'importante è che stia funzionando anche in AM. Adesso la lascio riposare un pochino, vedo se poi riaccendendola riprende naturalmente o se la tensione si abbassa, perché è lì il problema, capito? Bisogna vedere se tiene bene le tensioni. L'FM l'ha tenuto da ieri a oggi, spenta, riaccesa, ho lasciato un paio di giorni anche spenta, la tensione è rimasta stabile. Questa adesso vediamo, adesso la spengo, accendo il mio e vediamo un pochino, perché qua sono al buio, c'ho l'occhio inserito, la spia verde accesa, non mi posso spostare e poi non vedo neanche i segnali, non vedo niente, è brutto trasmettere così, dai. Va bene, vediamo Roberto. Roberto, oh. Ok, dai, avevo ripreso con la mia, sei oltre il 9, ma non avevo dubbi, anche se l'ho dato a occhio, sì, oltre il 9, 9,5 esattamente, dai. Sì, adesso vediamo, perché devo fare una cosa alla volta, io non ho strumentazione, non ho niente, sto andando con le piccole cosette che ho, e se quelli sono da sostituire non è una cosa che posso fare io. C'è un carissimo amico che c'è il laboratorio a Sassari che già mi ha cambiato nel mio il relè di commutazione di banda, quindi la porto da lui e me li faccio sostituire tutti, per non cambiare, per non sbagliare li faccio sostituire tutti e poi andiamo avanti. Vediamo, sostituendo prima quelli, mi blocco adesso così, sostituendo tutti quelli, vedo come si comporta la radio. Non sto lì a misurarli, a farli, li faccio togliere tutti, smonto direttamente la scheda, gliela porto, li faccio togliere tutti e sostituire tutti, capito? E poi la ripiazzo e vediamo come si comporta la radio, se ha migliorato, se parte qualcosa, e poi mi rifaccio nuovamente tutte le tensioni, dai. Ok, vieni avanti, anche voglio avere il segnale. 9,10 sì, ma si vedeva che il segnale era alto, perché la voce era bella forte, capito, mentre ieri invece ti sentivo basso. Va bene, Gianni? Sì, arriva bene anche qua. Dove sei? A casa tu o in campagna? 9, con picchia 9,10, dai. A anche tu, picchi positivi. I miei picchi come sono da te, Antonio? Positivi o il segnale è fermo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alla gala. E quindi sono positivi, vedi? Dicevo io, perché nel wattmetro risultano positivi, però da Roberto Di Alghero il segnale dice che è fisso. Già, non è, quando si è agganciato sono meno positivi, quando si è sganciato sono più positivi, capito? Vediamo se c'è Massimo Bulldotto. Massimo, facendo la doccia. Ah, è vero che hai detto che andava a farsi la doccia, vai. Ok, va bene, va bene, va bene, Rubi, capito? Adesso si va su quella direzione. Poi ti ripeto, come ho detto prima, lo ripeto, sino a dove arrivo io arrivo, ma no, penso io sono arrivato. Adesso voglio andare sulla parte dei condensatori, adesso dopo, perché l'avevo appoggiata, però vabbè, è fissata con tutte le sue cose, la smonto e... anzi no, domani è sabato, quindi niente, non devo smontare niente, lascio così. Lunedì la smonto, la porto dal cognato di Massimiliano, mi faccio togliere tutti i condensatori e fare mettere tutti i condensatori nuovi. E poi lui che c'ha anche le strumentazioni, mi faccio controllare tutta la scheda completa, se ci sono resistenze o qualche altra cosa da sostituire, le faccio sostituire tutto, dalla alla zetta. Poi al ripiatto vediamo come si comporta Roberto e poi posso andare avanti. No, vabbè, mi sono cancellato la QRZ, c'è solo il nominativo e basta. Ho tolto tutto, c'erano tutte le foto della sala radio, delle antenne, tutto. Ho tolto tutto, no, non mi interessa, intanto non faccio attività, non devo stare lì. Ogni volta che entravo, c'hai quello lì, ne ho tolto tutto. Non io, il mio manager, sai che ci abbiamo, ha fatto tutto lui, le ho telefonato, ho detto fa una cosa, cancella tutto il corretto, lascia solo il nominativo, giusto per far vedere che non sono un pirata quando entro in HF. E basta, resto tutto. No, vabbè, non ho problemi di portare la radio. Vado a Trinità d'Agurto, che c'è un carissimo amico e ci siamo sentiti anche da poco perché non mi ha visto più, non sapeva neanche che ero andato in pensione in quella zona. Ci ho lavorato per 10 anni, quindi è un bravissimo tecnico a tutto. È chiaro, ci vuole il generatore di segnale, oscilloscopio, c'è laboratorio, quindi ripara tutto e di più. Molto molto bravo, è un radioamatore di quella zona, insomma, ecco. Ma poco tempo, perché nel periodo estivo lui si occupa molto di barche, di cose, di barche anche grandi in costa, eccetera, quindi però questa cortesia di riallinearmela già me la fa, poi non ho fretta, quindi una volta che è tutto da riallineare gliela porto, gliela lascio, anche se se la tiene un paio di mesi non me ne frega niente. L'importante è che me la faccia, per quello non è problema, io devo arrivare a fare le cose che posso fare io, poi quella parte lì che non mi compete, perché non mi compete assolutamente, la faccio fare da chi ha la strumentazione naturalmente. Guarda, l'email mia è molto semplice, almeno quella ce l'ho anche accesa adesso il computer, però su QRZ no, è IS0DFB @tiscali.it. Quindi se te lo segni, no, non ci sono problemi, quello lo guardo tutti i giorni, il computer è quasi sempre acceso, quindi non ci sono problemi. Sì, IS0DFB@tiscali.it, mi mandi un messaggio col tuo numero di telefono, così me lo segno, ci mettiamo in contatto su MotoZappa, siamo a posto Roberto. Capito? Poi basta sentire tutte le animature di Alghero, c'hanno tutti il mio numero, tutti, dal primo sino all'ultimo, anche qualcuno che non c'è più che è morto, KK, anche Vanni, se senti Vanni te lo dà in diretta il mio numero, non c'è problema, qua non te lo do, perché l'ho cambiato da poco e non è che ce l'hanno tutti, capito? Va bene Robè, facciamo così allora, dai, avanti Anto, riprenditela. Tu come sei messo la strumentazione? Non ne hai generatore, no? Okay. Le sonde non le hai mai fatte parare? Okay. Sì, c'è qualcuno che mi chiama. No, Anto, ci vogliono le sonde tarate, perfette, se no cazzo andiamo a tarare, andiamo a fare più casino, capito? Ci vogliono le sonde, tarate per fare un lavoro del genere, perché già è tutto tarato, se andiamo a lavorarci con le sonde che non sono tarate, mandiamo a casino la radio, diventa ancora più sorda. Dimmi Luca. Sì, ecco qua, ma di Antonio Riserva, lo senti? Vabbè. Riprendi doppio rum, che è avanti. Vacchi, Vacchi, com'è? Ah, Vacchi, ok, Vacchi. Buonasera, ben ascoltato. Nord Sardegna, Italia, città Sassari, il mio nome è Claudio, avanti. Ah, ok, molto bene. Sì, anche tu arrivi, un po' di QSB, però arrivi molto bene. 5-6, 5-7, 5-8. Un po' di QSB, forse lo skip un po' rifatti sui, la propagazione è quella che è, però arrivi abbastanza bene, eh? Ok. Anto, l'hai sentito? Niente da fare. Robby, l'hai sentito l'amico Savi della Serbia? Non hai copiato niente? Vediamo un po' se ti hanno copiato gli altri. Robby, l'hai sentito? Sono entrato, è qua. Delta, Florida, bravo, Robby. Devi fare bravo, di FB, IS0 di FB. Ok, vai Gianni, c'è l'amico della Serbia, l'amico Savi della Serbia. Avanti collega della Serbia, se mi ascolti, è la stazione doppio run della città di Sassari, avanti. Dille il tuo nome solo, che se no non ti sente, dille il tuo nome. Ma tu già, date il tempo, no, non schiacciare in fretta, se no non ti capisce. Vuole sapere il tuo nome di battesimo. Già, Gianni, sì, si chiama Gianni, Gianni si chiama, Savi. Si chiama Gianni, Gianni. Perché non sta parlando, non so se è caduto dal letto. Gianni, si è mancata la corrente, riprendi Antonio. Allora è mancata la corrente da quelle parti. Va bene, Savi. 5758 anche per te, eh. Va bene, va bene. Tutti caduti solo, ciao qua. Ciao Giulio. Gianni è caduto e Antonio è caduto. Tutti caduti sono, adesso è mancata la luce, riprendi e fai girare, dai. C'è Luca del Monte, con questo barracchino che non arriva da qui alla Landriga. Non lo sento, Luca, avanti. Ciao, ciao Giulio. Ciao Luca, ma non ho capito quello che dici, troppo basso. Troppo basso per radio, e anche le segnali. Adesso sto tornando a casa. Sì, Robby, devo prima uscire dal programmino della Kenwood, perché c'ho ancora quel programma della Kenwood, dopo guardo, eh. C'ho ancora quel programmino che stavo lavorando su quella radio, e quindi devo uscire dal programma e salvarlo anche, perché così ce l'ho già impostato e c'è tutta la parte delle tensioni, tutte quelle cose lì. Va bene, va bene. Ok, adesso Giulio, questa è la mia, Giulio. Questa è la mia, adesso ti accendo l'altra. Voglio vedere se la tua voce è chiara. Segnale non ce n'è, lo smitter non sale perché c'è il frequenzimetro spento, sicuramente è causato da quello, le tensioni. Ho ripristinato anche la M, aspetta, che commuto. Ecco qua, mi senti? Vieni avanti, voglio vedere se la tua voce è chiara come gli altri. Sì, ti sento bene, ma hai tolto il processore adesso? No, questa la sto usando con l'MC50 senza processore, perché ancora non sono arrivato a fare la... Questa non è la mia, quella che funziona. Questa è l'altra, che ieri non andava in ricezione in AM, adesso va sia in ricezione che in trasmissione. Però non ho segnale, il segnale non sale. Ho capito, sì, no, va benissimo. La radio è perfetta, è buona, buonissima anzi. Per cui va bene, va bene. Piano piano, vedrai che trovi tutti i punti dolenti di quella radio e vedrai che riesci a sistemarla alla grande. Sto lavorando sulle tensioni. Mi hanno dato un programmino, l'ho inserito e col computer mi sto aiutando piano piano. Tensione in M non ne arrivava niente dal primario, è proprio completamente a zero. Quindi ho ripristinato le tensioni, adesso piano piano sto lavorando su altre cosette, già lo ripristiniamo, dai. Tieni conto che sto andando con 8 watt, non lo metto a 5 perché sono troppo basso, 8 watt, modulati 10, quindi sto cercando di tenerlo un po' così e soprattutto capire se le tensioni tengono. Quella LFM tiene, ha tenuto, adesso vediamo se tiene anche questa, e poi stacco la scheda, lunedì la porto da Gavino e mi faccio cambiare tutti i condensatori, tutti i condensatori elettrici nuovi, poi l'arrepiato, e vediamo se migliora qualcosa, perché se no non riesco ad andare avanti. Se c'è qualche condensatore che non ha la sua capacità, non mi fa lavorare, capito? Quella può essere una mossa buona, cambiare tutti i condensatori, certo, può essere sì, c'è qualcuno magari che ha perso il suo valore, la sua capacità, per cui non è male quello, cambiare i condensatori sarebbe una cosa buona, così mi cominci già a ripristinarlo anche sul circuito elettronico, oltre che il disusinante, eccetera, eccetera. Quello è già una cosa buona. Sì, ma non lo faccio io, perché io sono adattore ad aria, non ne ho, lo faccio fare da Gavino, il cognato di Massimiliano, che già mi ha cambiato una volta, il coso, il relè di commutazione di banda, quindi lo faccio fare da lui, allora la scheda me li faccio cambiare tutti, dall'A alla Z, tutto quello che c'è nella scheda lo faccio mettere nuovo, poi l'arrepiato, intanto sono quattro spinette, l'arrepiato, e vediamo se ha migliorato qualcosa, ancora non sono arrivato al smitter frequentimetro, ma penso che lì tensione non ce ne sia, lì ci deve essere intorno agli 8-9 volt, ma non penso che ce ne sia tensione, quindi anche lì c'è da lavorarci, però piano piano, dai. Ok, ripasso con l'altra, te la volevo far sentire, questa è l'MC50 però, l'MC50 che è collegato a quella radio lì, perché gli altri microfoni sono collegati al 430, al 440 e al 702 della Kenwood, lì invece c'è l'MC50 e mi serve per lavorare, dai. Ok, ripasso col mio perché non vedo segnali, e poi è un po' sorda, quindi se chiama qualcuno basso non lo sento, ok? Gianni, sei rientrato? Sì, ho appena commutato. Ok, ciao Robè, ci sentiamo alle prossime. Questo è il 60 col mio, va bene. Ti sento anche meglio perché quello là è un po' sordino. Ciao, un abbraccio grande, ti tengo aggiornato. Là dopo, quando esco dal programmino, controllo e vediamo un po'. Ok, ti passo Giulio per i saluti se ti ha sentito. Purtroppo non lo sento, è troppo basso. Basso il segnale, anche basso il radio. Ma io ho l'antenna bassa, già lo sai qua. Non so se mi stai ascoltando, vabbè, io ti saluto, ma probabilmente non mi senti. Vediamo un po' se mi ha sentito. Avanti Roberto, mi hai sentito? Non lo sento io qua. No, evidentemente non ti ha sentito. Vabbè, non l'hai sentito a Giulio? Ok, d'accordo, vabbè, dai. Va bene, dunque ti ha salutato Giulio Dollaro da Sassari. Va bene, vediamo un po' se è rientrato Gianni Doppio Rum, Antonio Riserva. Claro, io ci sono, va, ti ascolto, va. Ti ascolto e lo sto molto bene. Buonasera, Va bene, tutti a Pizzo mi si decidi, ma giochiamo a due, mi si decidi bene, va bene, meglio così. Sì, Massimiliano, stai un po' a riposo e vediamo, dai, piano piano, questa è la mia, l'altra l'ho messa a parte che fanno male anche i bocchi. Va bene, tratto anche Tino, mi sembra aver sentito, vai. Riprendi Anto e fai girare un minuto e voglio sapere cosa cazzo che ha preso al cane che sta abbaiando. Buonasera a tutti, ciao Giulio, ciao Massimiliano, non so cosa ti è capitato, Massimiliano, anche tu non sei bene, voglia. Non so, c'è anche un altro amico, lo sentivo Santiago 5, ma non so chi è. Sì, Tino, saluto, cioè entro per i saluti, saluto tutta la ruota, sono con un po' di febbre, la freddola a manetta. Diciamo che mi sta mancando la voce, mal di gola, farò i polmoni, da un po' di cose, da tutta assieme. Bene, dai, ne sto uscendo, è una somiglia, vabbè, non da quello, ma da cose un pochino più complicate, vabbè. Ciao, altri via. D'accordo, riprenditi, dai. Antonio. Ok, ciao Tino, ciao Massimiliano e ciao Antonio. Sì, Antonio, vabbè, ieri ti sentivo meglio, ma comunque va bene lo stesso, già ti sento lo stesso. Vai Massimiliano. Massimiliano è in quel rix, che non si sente tanto bene. C'era un altro amico, Giulio, come si chiamava, quello basso, dai, non so neanche dove stavo modulando. Era Roberto Di Alghero, ma io non lo sento, non lo sentivo io. se io l'antenna troppo bassa, bisogna che mi decida a metterla al suo posto originale, perché se no non riesco. Già arrivo basso ad Alghero, da sempre, perché io per Alghero sono stato sempre in una condizione un po' precaria, e poi adesso con l'antenna anche bassa, tra l'altro, per cui dovrò decidermi a spostarla e metterla dove era prima. Roberto di Alghero era. Provo a chiamarlo, ma non so neanche se mi ascolta a me, perché anche io sono nelle tue stesse condizioni. Roberto di Alghero, se mi ascolti, cambio, o se ha chiuso, boh, non lo so. Sì, ho sentito Claudio che l'ha salutato perché stava chiudendo, per cui evidentemente non c'è più adesso, ha chiuso. Ma è tu. Come è possibile, ogni volta che muoio un gatto ti mangi un coniglio, tu, boh. Sono rientrato, sono passato tutte le macchine via Milano, le macchine del rally forse stanno scendendo da Tergo, vabbè, ciao a te, buonasera, ben ascoltato. Ciao, buonasera. Via, basta uscita oggi, è un casino, è Antonio, quella lente, quella da cosa, me la sono fatta prestare, però si vede molto bene, vedi tutto. Mi fanno male gli occhi, adesso basta, sono spenta, messa a parte, adesso domani stacco, lunedì stacco con la scheda, la porto alla vina, faccio cambiare tutti quei connessatori. Oh, scusate, Arturo, hai saputo di Luca Piras? E forse anche Claudio lo conosce, ho trovato lì là, all'Amo, con io al bar in via Pascoli. Ma Luca quale? Quello gioca a pallone? Luca, non so se giocava a pallone, il figlio giocava a pallone, è morto ieri. Ma così intendi? Mica, sono su WhatsApp, Adamo, ti conosco tutti, io, Luca, Adamo, vaffanculo, quello che lavora, che gioca a pallone, giocava con l'Olmedo, molto bravo. Che lavora lì da Chico Caffè, poi l'altro Marco, fare fornitore. Esatto, ma Luca è quello piccolo, quello un po' basso. Era, sì. No, ma ecco di che cosa è morto. Luca, l'ho saputo stasera, sono stato al campo e non so neanche di cosa si tratti, però infatti, 46 anni vado via, Sì, 46 anni, perché Adamo è quanto me. Adamo, no, quanto è Anna? Manco l'uguraggio, va di mandare un messaggio su WhatsApp a Adamo. Cosa le mando? Cosa le scrivo? Scusa Giuseppe, poi ne rimando il mic a te. La cosa più brutta è che lei non c'era, perché lei era fuori con i bambini, col bambino facendo un torneo fuori Sassari, diciamo, solo per essere in continente, e niente, lo stavo chiamando per sentirlo, solo non rispondeva, alla fine ho dovuto chiamare o Adamo o qualche altro fratello per andare a controllare, l'ho trovato lì. Grazie, quindi l'ha trovato Adamo. Credo che sia Adamo l'abbia trovato a casa, sì. Non è possibile, allucinante, guarda, sono andato a prendere l'appuntamento per portare a Filippo a lavare mercoledì, infatti sono andato a prendere il caffè, lavavamo due chiacchiere, sto bene, qui, là, c'è un cadavere, c'è un morto, non ti fai più vedere, non scendi più, solite cose che mi dicono un po' tutti, vabbè, pazienza. Cioè, allucinante. Non ho parole. Ho capito. Vabbè, era giusto per farlo lo sapere, visto che lo conoscete, che lo avete conosciuto. Quello che lavora al fornitore, là vicino a casa. Il fratello, un po' più bassottino, di Marco, cicciottello, là era, senza capelli, non so se ce l'è presente. Qua tutti gli altri sono più o meno simili, si riconoscono che sono fratelli di Adamo, lui era un po' più basso, gli altri sono tutti alti, un bel alti, capito? Un bel alti, ciccio, non mi dispiace, porca miseria. Giulio, riprenditela, dai, dammi un secondo che vedo se riesco a mandarle qualcosa su WhatsApp. Ok, ne prendo io, non lo conoscevo io, cosa aveva, che attività aveva il fratello di Pascoli, Tino? Beh, il grande lavora come barista in Via Pascoli, l'altro lavora lì al fornitore della Esso, se non mi sbaglio, della Esso, quello di P, no, forse dell'IP. Luca non mi ricordo, cioè non so cosa faceva, credo che anche lui era il nuovo fornitore però. Ok, ho capito. Non mi ricordo di averlo conosciuto. Oh, se non vedo magari questa persona però, che la riconosco, magari non so il nome, sarà così. Non so cosa dire, vabbè, mi piace sempre quando una persona se ne va per sempre, mi piace, certo, ci mancherebbe altro. Babù, è andata così, pazienza, faccia l'anima sua. Avanti a tu. Oggi ne ha fatto 80, Riccardo, oggi siamo salita a 40, 42, così ha detto la televisione, stata ai 42 gradi. Oggi era forte, nonostante che non era molto soleggiata la giornata, che c'era un pochino di ombra, per così dire, un po' di nuvole là. Però se potevi mai vedere se ci fosse stato sole, quello proprio, quello alto, invece no, era abbastanza tranquillo come sole. Però il vecchio credo che fosse questo di oggi, non lo so, 42 gradi non è molto di arrivare di colpo, senza darci nemmeno modo di abituarsi al grande caldo, è arrivato così improvvisamente, troppo forte. Vai Tino. Ma io sono uscito di casa stamattina presto, ho portato, siccome la mia casa è abbastanza fresca, no? Quindi stavo bene dentro, quando sono uscito fuori mi è mancato il respiro, caspita da quanto c'era, anche se era un caldo asciutto, non era umido, però era abbastanza caldo. Sì, ma certo, quello è vero, no, la sua casa sta bene, a Busa, poi specialmente io ho fatto temperature in questa casa, si può immaginare, cominciando dal basso, dalla tavernetta, poi la sala, poi la zona rossa, poi la massata, faccio 4 temperature, dopo mi piace accettare, o meglio, dove sono meglio ci vado, e me ne rimango lì, per cui va bene, soprattutto in tavernetta con questo caldo si sta vivo, perché rimane proprio fresco, rimane, dai. Va bene, avanti a tu. Gianni si era allontanato. Gianni, sì, sei tornato. Anto, ma quello lì già stai usando? Beh, abbuglia. Oh, ogni tanto vibra questa roba, ora cavolo hai. Ah, aspetta, sì, aspetta. Cambia la stella tu, cambia la stella. Devi segnare metà di quando passa. Antenna, fatti quella che ti ho detto, e te la metti nel terrazzino e non disturba nessuno, e non è ingombrante. Oh, va bene comunque così? No, questo perché era attaccato una sua cosa? Oh, dai, io vi saluto, sto uscendo. Ok, sto andando lì. Ciao a tutti, buon proseguo di serata, scusate ma non devo andare, ciao. Ok, ciao Claudio, ciao. Sentirci a domani, dai, avanti Tino. Ehi, qua c'è un po' di bailame, dai, ci sentiamo dopo. Ok, va bene, capita tu, ti vedi, guarda, in 2 ore te la fai con la tela, e poi te lo attacchi anche la ringhiera del terrazzino e va alla grande, ti posso garantire che va alla grande, per cui poco lavoro, poca spesa, anzi pochissima spesa, è un'antenna performante, te la posso garantire. La canna a pesca, da Decathlon, 15,90 €, è lunga 7 metri. Oh, buonasera. Oh, ciao. Ciao. Era ora che ci facessi sentire. Beh, io mi ascoltate questo camionario, gap. Già ci sentiamo, la grande. Guarda il camionario, guarda il camionario. non so chi è l'altro, ciao Giulio, dai, adesso già mi ascolti, sì. Già ti ascolto bene. Già ti ascoltiamo, vai Tino, se ci sei ancora. ma per carità, gli ha preso la frega 45 anche a questo. Abbassati sto porto, abbassa, mi hai fatto il soldo, la magaglia tuia. Ho detto, più basso di questo che sono, non ho altro attaccato. Ho detto, ti ha preso la frega 45 anche a te. Io non lo capisco, Tino, è troppo forte, non ho capito quello che ha detto, sei un bel forte, Tino. Lo so, aspetta che abbasso, guarda se va bene così, 1, 2, 3, prova. Cazzo, è un radio allucinante, super di una balla, cavolo, prova. Se va bene così, l'ho abbassata, ancora di più abbasso. Vabbè, c'è la timbica forte, quello, per quello che arrivi forte. Ciao Gianni, avanti Claudio, pure c'è, avanti Cla. No, è uscito Claudio, ha chiuso. E tu? Io c'ho appuntamento, per ancora 5 minuti, c'ho appuntamento in chiesa che devo portare la Madonna quest'anno per la terza volta. Ci vuole conoscere il nuovo parroco e portare tu l'idea della Madonna. Ah, ok. No, già sono cose belle anche quelle. E perché no? Già va bene. E che festa? Che festa è? Esce il 30, con l'Immacolata di Maria. Esce ogni anno, no? L'anno scorso uscita verso il 20, 18, non mi ricordo che giorno era. Ok. Sì, è pensare che quando io da giovane che facevo la fretta, facevo le gare, quando le organizzavo, quando c'era la fretta in quella chiesa, io organizzavo anche le gare di corsa e di marcia. E io mi ricordo che le ho fatte diverse volte, ma sono qua vedendo di 50 anni fa, e per cui non è ieri, tu non eri nato ancora. Scusate un attimino, Antonio, tu venga un attimino per una prova. Che per forza un attimo la serva. Sì, perché non lo si. Sì, perché sei giù un po' basso il sentivo, e purtroppo l'antenna è quello che è, capito? Gianni, attenzione, Gianni doppio rumbo. Ehi, come sto uscendo, cambio? Già bene, non si è a casa in macchina, no, la macchina non è più. La macchina non è mezzo. Che pagava a casa? Figurati se lo mongo io. La macchina della tua ragazza lo puoi mettere. È fresco tu. Tu vuole? No, non li mongo io. Guarda, se proprio lo voglio mettere, magari con una magnetica, ma piccola però, no, super antenna. Se no, non li mongo. Guarda, non sarebbe male che ogni tanto si andava a Olbia, ma rimetterlo così faccio delle chiacchiere. Ma Olbia è zona negativa, per sas. Tutto montagna, in Chivio, Sì, fa parlare con camionari, dico. Ah, sì, quello sì. Scappa, se c'è traffico, perché adesso mi sa che poco traffico c'è. Avanti Giulio, buonasera. Ciao Gianni. Ti abbiamo chiamato anche poc'anzi, ma ti eri allontanato, no? Purtroppo in questo periodo c'ho molte telefonate, c'ho molte cose da risolvere, quindi sto telefonando a destra e a manca per visite, per questo, per l'altro, mi hanno chiamato, quindi ho dovuto mollare. Beh certo, già, no, per quello, no, che ti abbiamo chiamato anche un momento fa, infatti... Anche chi l'hanno chiesto, ma c'è Gianni, invece no, Gianni si era allontanato, avevo detto. Per cui, va bene, Claudio è dovuto uscire, evidentemente aveva cose da fare, e siamo rimasti noi. Io, tu, c'è anche Tino comunque, è l'amico del monte. Avanti, ti. Va bene, dai, forse si è allontanato anche lui, che stava dicendo che ci sono i bambini che stanno giocando. I bambini sono l'allegria della casa, o già. Sì, poi crescono, volano e non li vedi più. Poi, io guarda, i miei sono cresciuti e manco accorto me ne sono. Manuela c'ha 27 anni, Marco ne ha 18. Ma è così che tutti abbiamo fatto la stessa trafila, abbiamo seguito lo stesso percorso, tutti quanti. O ti sei dimenticato? Vabbè ragazzuoli, io vi saluto con la buona serata, io scappo che c'ho l'appuntamento, capisci? Ciao Giulio, ciao Gianni, ciao Claudio, ciao Antonio, ciao Tino, ciao a tutti, ciao. Ok, ciao, ciao Luca. Avanti Antonio. Ciao Luca. Giulio. La radio bassa. La radio bassa e rimediamo subito questo. Adesso va meglio così. Fa, ho dovuto alzare quando si è parlato tu, poi ha parlato Luca, ragazzi, mi ha cremato tutto. Ah, ma sei andato a volte con la fome? Anche perché sto parlando quasi sottovoce, là. Ora va bene, giù. Ora va bene, sotto la bridetta. Cavagava. Purtroppo, devo fare mille visite giù, mi sta passando la buia, lo sai. Già, bisogna fare, non puoi sfuggire alle visite, devi fare basta, dunque è meglio farle, se io qualche ieri non ho fatto. Ho fatto la terapia, ieri mattina io ho fatto la terapia, tu pensa che alle 8 meno 4 ero già lì, ho consegnato il foglio, all'una sono andato e mi hanno fatto la terapia, per cui adesso tutti i giovedì per 6 settimane di seguito e dovrò andare tutti i giovedì. È una cosa veloce, è una cosa velocissima, però intanto devi andarci due volte, primo la mattina presto per consegnare la prenotazione, poi verso l'una devi andare perché allora ti arriva la terapia e allora te la fanno quell'ora lì, capite? E io ci vado presto perché sennò magari sei il quarantesimo e non esci più. Invece quando vado presto sono uno dei primi, anzi addirittura ieri ero proprio il primo in assoluto, che puoi immaginare. E così farò la prossima settimana. Adesso, ma vabbè, la fila te la fai prima, ma se uno c'ha da fare finisce prima, hai ragione. E così faccio dalla dottoressa. La dottoressa adesso la mia va in pensione e ne devo entrare altri due. Praticamente la mia dottoressa quando arriva si dispera perché vede la gente fuori, già il pienone fuori aspettando. E l'altro giorno ci ha detto, ma perché non ve ne andate al mare? E almeno potessimo, dottore, è che ci siamo affezionati a lì, sappiamo che poi deve andare in pensione, quindi ce la dobbiamo godere quando sta. E lei non credo, tu pensa che io ieri mattina sono arrivato in pienone, non me lo fa. La volatoria apre le 8:30. Un attimo prima di aprire è passato appunto l'addetto, gli ho lasciato il documento e poi mi ha detto vieni verso mezzogiorno e mezzo l'una, perché intanto la terapia arriva a quell'ora, per cui quando sono andato verso mezzogiorno meno un quarto, una cosa così, sono andato lì, poi praticamente trovo cosa andato, ho aspettato un'oretta, insomma a 1:10 ero fuori, poche parole, avevo già finito. Tu immaginati un ambito lungo 70 metri, 80 metri, tutto pieno di sedie, in tutta una fila, non c'era una sola sedia libera, tu ti puoi immaginare quante persone c'erano nella tenda. Via, fai averne bisogno. Brutto che sembra che mangiano i busucci, prima la gamba, adesso l'occhio pure, l'occhio che mi sta facendo vedere questi puntini, ho fatto la visita lì, punti ma non mi ha soddisfatto, adesso devo andare da Piccinini a farmi vedere, e mi ha detto che praticamente si è mosso il liquido che c'è nell'occhio, tolto delle impurità, quelle cose che vedo sono le impurità che sono uscite, che però sono pericolose perché possono la furia di sbattere, andare sulla retina e rompere la retina, quindi devo fare il laser sicuramente per eliminarli questi puntini qua, e più a volte si appanna l'occhio, un occhio mi si appanna, vedo appannato, poi di colpo si riapre e vedo bene, è una cosa strana, e mi è successo da una settimana fa, sono andato subito, ho chiesto l'urgenza, sono andato subito a pagamento, ai punti e l'ho fatta la visita. Però mi ha detto che dovevo andare da un altro suo collega perché ha un macchinario più preciso, più particolare, e mi ha dato l'indirizzo. ho pagato lì, poi devo pagare dal collega e poi ritornare lì per fargli vedere, ma stiamo scherzando, vado direttamente da uno, pago una volta e via, cosa devo già fare tutti i sigilli. Non so, questo qui sta, questa qua, quanto prende? 60 euro prendevo una volta, questo qui, per una visita. Quanto a me mi ha preso? 50. Ah, ok, una volta prendevo 60 euro. Vabbè, vabbè, già, purtroppo bisogna farlo. Siamo in mano a questa gente, non siamo, oltre che siamo in mano a Dio, siamo anche in mano a questa gente, perché questi, questi a volte ci speculano. Adesso questo mi ha fatto la visita. E cosa ne so se quello poi ha concordato qualche alleanza con qualche collega e ti ha mandato anche da lui. Non lo so, sai, oggi tu mi dai, ma quando mai sono così cattivi? Guarda, oggi c'è da pensarle tutte, oh, già, c'è da pensarle tutte, perché già lo sappiamo come funziona oggi la questione dei soldi. No, io penso che cioè, Renato Piccinini è numero uno a Sassari, farà pagare qualcosa di più, però ti fa il laser nell'ambulatorio, c'è l'ambulatorio grande, ti fa l'operazione della cataratta, tutto quanto. C'è un ambulatorio abbastanza spazioso e cose. E ti fa tutto lui, capito? Non sta a mandarti qua, là, bumba, io già mi sono stufato e devo andare, come si chiama, dal diabetologo, e quello mi dice devi fare la visita agli occhi, in più devi fare l'elettrocardiogramma e via, fare l'elettrocardiogramma, la visita agli occhi, adesso ne devo fare un altro di elettrocardiogramma perché c'è già un anno che l'ho già fatto, quindi devo fare un altro, vado a prendere l'appuntamento e chiedo in ferie, quindi lo devo fare a pagamento anche quello lì, cioè alla fine poi ti esce uno stipendio. Sì, ma quello sì, lo sappiamo. Purtroppo uno per curarsi deve spendere, perché intanto la sanità ti aiuta fino a un certo punto, però di solito se vuoi qualcosa di più concreto, qualche visita specialistica eccetera, devi andare sempre a pagamento, e soprattutto se la vuoi velocemente. Purtroppo è così, e cosa ci vuoi fare? Ma Antonio se ne è andato e rimasto, Antonio ci sei ancora? Ha risposto poco fa. Non c'è, adesso non c'è, evidentemente c'è andato. È così, già, è così, purtroppo è così, lo sai. Oggi tutta la sanità italiana, nonostante che abbiamo il diritto, però siamo subordinati alle visite specialistiche, per cui devi parlare, sempre, sempre, sempre. Purtroppo loro ne approfittano, io spero che invece siano sempre onesti, ma sai, un minimo di dubbio ce l'ho, almeno io ce l'ho, perché lo sappiamo che è così. Sono così, ho visto anche all'ospedale cosa fanno, muore una persona e gli infermieri sono d'accordo con le agenzie funebri, gli avvisano che è morta una persona, di sbrigarsi, gli date 200 euro per avvisarli, no? E questi qui si fanno i soldi, nello stesso tempo fanno guadagnare l'agenzia funebre, e come così ci sono traduttori di queste cose qua, capito? Ti mandano, ma vai da quello però, che ci conosciamo, è bravo, capito? Vai da quello lì. Sì, ma è così già. Si passano paziente da uno all'altro proprio per lavorare tutti, per guadagnare tutti. Almeno fossero, per questi fossero accessibili anche da certe tasche, ma sono esageratissime con certe visite, non è possibile. Ci sono visite anche da 500-600 euro già, a secondo della patologia che uno ha. Ma te ne rendi conto, non è possibile. Purtroppo così, d'altronde, devi accettare, devi cagare molto, devi sacrificarti e parlare. Vabbè. Sì, quando ce la faccio poi volo tutto, perché la pazienza ha un limite, non è questo solo di pagare laggiù, è che sono sempre con ricordo da una parte all'altra, ogni mattina sono così, sempre da una parte all'altra, e vado presto, poi alle 10 devo rientrare a casa perché se vede il medico fiscale, vabbè, vi faccio fare sempre il foglio e cosa quando vado a fare il bici. fanno il giustificativo, però sa, rientro verso le 10, poi devo fare, a mezzogiorno devo farmi la spesa, questo e quell'altro, insomma passa la DVC. Purtroppo sì, purtroppo è così. No, ma poi quando devi fare queste visite devi mettere il preventivo o la mattinata, devi prendere e mettere il preventivo, perché non è questione di dire vado 10 minuti e mi sbrigono. Poi alle volte ci sta anche la mattinata intera, per carità, no. Oia, purtroppo, se volete vuoi fare già. Siamo arrivati ad un'età che ogni tanto ce n'è una, e allora dovevo prendere una vita in filosofia, perché sennò non vivo bene, devi stare tranquillo e naturalmente cercare di curarsi, quello è ovvio, perché sennò sarebbe proprio il massimo della cosa, però è così. Vabbè, pazienza, tanto mi t'arrabbiesi e non risolvi niente. Anzi, poi capace che ti prendono anche in odio, ti prendono certi rotture, eccetera, e te lo bagno la puttana, se la fregano. Invece di andarci con filosofia, soprattutto con fiducia e con coraggio, tutto lì già. E soprattutto con portafoglio sempre bello pieno, per darlo a loro. Quello sempre. Quello sempre lo vogliono pieno, perché ti devono spennare. Ma io quello che non sopporto, Giulio, è che uno se lavora all'ospedale, perché deve far pagare? Mi fa, per fare una risonanza magnetica ci vogliono 160 euro. Ma dove la devo fare? Dov'è l'ambulatorio? Non sono in ambulatorio, sono all'ospedale. Alle cliniche universitarie. Scusi, ma cioè, come se sarebbe a dire, io lavoro lì, mi ha detto, così si è cazzo. Sì, e lui lavora lì e si fa gli straordinari, o meglio si fa lo stipendio straordinario, ma lui ha un lavoro di quelli che dovrebbe fare tranquillamente. Purtroppo è così, lo so, e io avevo fatto addirittura la faccia lì, era fatta da poco già, non è che era molto, quasi sarà un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, che vuoi immaginare, sempre di là, Gianni, sempre su. Per carità. E poi perde anche la pazienza facendo tutte queste visite. Io sono fatto così. Sì, che una volta, ma devi stare sempre andando, uno ti manda dall'altro. Adesso il reumatologo mi ha mandato a fare la risonanza magnetica e mi ha fatto fare la lastra. Lastra questo mese gli ho fatto 3 già. E adesso basta, non ne posso più, se no mi passa una cosa e mi viene l'altra. D'altronde è così, non ci vuoi fare. Io devo affidare a loro, avere fiducia in loro, e loro fanno quello che vogliono di te, di me e di chiunque ha bisogno, di qualsiasi paziente, insomma, fanno quello che vogliono, sperando sempre di trovare quello più onesto e soprattutto umano che ti aiuti nel modo migliore possibile. Però, ripeto, il portafoglio te lo devi avere sempre a portata di mano per pagare, se no non ti curi. Penso io, e la gente che non ha lavoro, che le poveracci come fanno, scusa? Come fanno a curarsi? Purtroppo è così, ce ne sono tantissime persone così. Immagina con le vecchietti proprio, perché no, che al momento non riescono nemmeno a muoversi e che prendono la minima pensione, come fanno a fare certe visite? Non è possibile. È meglio non pensarci, guarda, perché ti viene subito il malumore, ti viene pensando a certe cose. Vabbè. Il 25 ce n'è un altro di visita. Poi c'aveva anche il cane che stava male in questo periodo, dal veterinario solo di medicine ho speso quasi 100 euro, 95, una cosa del genere, più la visita al veterinario, più fargli, da quando gli ha fatto il vaccino stava male. è uscito a sangue dall'organo genitale e mi ha detto che praticamente era una cistite. L'ho curato con gli antibiotici e questo e quell'altro, lo portavo ogni tanto a visita. Sembrava che stesse guarendo tutto, oggi mi ha di nuovo vomitato e è uscito sangue da... Mi ha fatto l'ecografia, dice guarda non c'è niente, c'è appena appena di renella ma non c'è nulla. Anche lui può grande male, anche lui purtroppo. Sempre soldi già, sempre un po' un motivo per l'altro, perché poi certe cose ti succedono sempre nel momento più critico, quando uno ha un minimo di difficoltà. Purtroppo è così, e non mi vuoi qua. Ma speriamo bene. Speriamo bene già, solo quello bisogna volarsi, di riuscire a tirare avanti tranquillamente. Non dico lisci, ma almeno con difficoltà, pochissima difficoltà, ecco, quello che conta. Certo che hai soldi già, quello già fa quello che vuole, si fa curare alla grande come vuole e va anche fuori, magari se ne va anche in America per farsi curare. Però ci vogliono certe possibilità, che uno come me non ha, per cui io al massimo mi posso riprendere qua, ma andare fuori, e come fa? Fuori intendo lontano, certo se poi c'è da andare fuori da qui a Milano, tanto per fare esempio, quelli che arrivano tutti, ci arrivano, ma andare fuori, veramente, dove ci sono i grandi specialisti, fuori, come se vado a Berlusconi, hai visto tre volte, se si sente male Berlusconi subito si fa un viaggetto in America, lo ricoprono, e le fanno il tagliando subito, 4-4 ore. Sì, ma hanno detto che i migliori specialisti sono in Italia, non in America. Dicono praticamente la miglior sanità ce l'abbiamo in Italia, sanità a livello di dottori, perché poi come è organizzata la sanità va di pietà. Però così ha detto Palombelli in un programma, che praticamente noi abbiamo i migliori dottori in Italia. Allora, quella professione, se ho capito, quella donna, insomma, ho capito. E io, sai così, ognuno si va per fatto suo, o già. Però non è solamente, non basta avere solo i medici bravi, ci vogliono anche le strutture come si deve, ci vogliono, perché è inutile che tu hai i medici bravi come si deve, poi arrivi lì in ospedale e non mi sono manco le gambe, le punture per tenere su, lasciamo stare anche quel tasto poi, lo sai come la sanità italiana, stanno sempre tagliando continuamente. Non vedo più niente, quando sei covalato poi non vedo l'ora di buttarti fuori, anche se non sei guarito perfettamente, proprio perché c'è l'altro pronto che deve occupare quel letto. È vero. Ma io mi ricordo una volta a Porto Torres che lavorando in cella mi è caduto uno di quei ganci dove appendiamo i prosciutti, le cose, i salumi, là. Mi è caduto in testa, mi si è filzato in testa, questo mio collega me l'ha tolto e mi ci passava il zampillo, allora cosa ha fatto? Cioè, mi ha messo una garza e me l'ha tenuto premuto, l'altro ha guidato e mi hanno portato al pronto soccorso. Al pronto soccorso mi hanno detto che dovevo andare a comprarmi l'antitetanica e lo spray per mettere che fa una specie di pellicola per tappare il buco e praticamente è dovuto andare un mio collega perché io non ero in condizione di andare, è dovuto dare i soldi, è andato, ha preso l'antitetanica, gli hanno scritto il nome più la medicina con lo spray che si passa in testa e poi ce l'hanno tenuto loro al pronto soccorso, non me l'hanno manco dato. Sì, beh certo, sì. Te lo sto dicendo, a parte il fatto che deve fare una attesa lunghissima, tante volte quando vai lì, per carità, guarda che tempo fa ho dovuto accompagnare mia moglie, si è sentita male la sera, alle 8 di sera, l'accompagno al pronto soccorso, sai quando sono rientrato a casa, di domani mattina alle 7, tutta la notte lì, in attesa, perché c'era tanta ricordazione, arrivava un nero, arrivavano persone di colore, anche senza nessuna urgenza, facevano passare prima loro che gli italiani. Boh. Più è in base al codice che ti fanno passare, è in base al codice. Il codice rosso passa per primo, poi c'è verde, giallo e via dicendo, in base al codice. Io una volta, come sto dicendo, non la di nuovo perché una volta il padrino di Viviana in campagna dice che aveva questo ferro che spuntava dalla terra e ogni volta inciampava. Lui era anziano, aveva 78 anni. E praticamente un giorno lo stava facendo cadere, allora cosa ha fatto? Si è incazzato, ha preso la mazza e lo voleva piegare, capito? Di modo che lo sotterrasse a colpi di mazza. Sbaglia un colpo, si era dato il colpo di mazza alla gamba. Però lui non ci voleva disturbare alle cose e non ci ha detto nulla, dice che stava soffrendo tutta la sera, lui viveva da solo. Poi ci ha telefonato alle 4 di mattina, che non ci ha disturbato di più alle 4 di mattina, che telefonaci di giorno. Beh, alle 4 di mattina siamo andati lì all'ospedale. Una fila, ragazzi, questo qui con la gamba che ce l'aveva gonfia, mi sembrava un palloncino. E praticamente quando l'hanno fatto entrare gli volevano amputare la gamba addirittura, perché lui c'ha un problema di circolazione, come si è dato il colpo, e hanno chiamato la figlia che praticamente fa, come si chiama, fa la cardiologa, la chirurgo, fa il medico chirurgo Alghero, per chiedere il parere. No, la figlia gli ha detto no, assolutamente, ricoveratelo, ci penso io, e fatto sta che poi gliel'era salvata la gamba. Però ho fatto tre turni di infermieri, tu vedevi gli infermieri che ce ne andavano e quelli che rientravano, infermieri, dottori, tre turni ho fatto. Sì, ma lo so, così, purtroppo è così, io già. E tu vedi gente in ospedale che fa male, e fuori ti tengono nell'ambito, in corsia, ti tengono, non nell'ambulatorio dove fanno il pronto soccorso, proprio nella corsia, nell'ambito. Ore e ore, persone che stanno male, ma quando mai? A malapena ti mettono una barella, ti mettono, ti fanno sdraiare lì, e magari quello continuamente che si lamenta, purtroppo è così. La sanità è pessima, qui in Italia la sanità è pessima. Anche se magari i dottori possono essere anche bravi, però è la struttura, la tentatura soprattutto che manca già. No, uno non può lavorare così, purtroppo la situazione è questa. Lo Stato italiano non fa altro che tagliare le risorse alla sanità e allora manca di tutto. Quando arrivo lì, di la vita non c'è nemmeno la sedia per sederti, puoi immaginare, per carità. Poi non mi parlare di gente di colore, perché ce n'era uno che è arrivato e stava facendo il prepotente, ha parlato male alla guardia giurata, io non so come ha fatto a resistere con la guardia giurata. Ha detto stai buono che ti chiamano, c'aveva il dito a penzoloni, il dito della mano. E l'altro di colore diceva tu devi farlo entrare, guarda come ha dito, c'è gente che è più urgente di lui, un attimino. E praticamente a un certo punto questo col dito rotto si alza dalla sedia a rotelle, stava andando verso il bagno e io ero seduto alla sala d'aspetto, come stava andando in bagno stava per cadere, pensavo si stesse sentendo male, io sono andato, l'ho aggranfato per non farlo cadere, se non mi ha vomitato tutto addosso il vino, era embriaco gravezza, dice che non bevono, roba di 2 litri ha messo in terra. Puoi immaginare, per carità. Che cosa sto dicendo? Arrivavano continuamente questa gente, arrivavano a piedi, sia uomini che donne. Ma se tu sei arrivato a piedi lì e non hai avuto nemmeno bisogno di un accompagnatore per portarti lì, appena rientrare subito lo facciamo entrare a visitarlo. E lì sa salire, gli italiani, stati, insomma, e lì aspettando ore che non passavano mai, non è possibile. Non è possibile, no, la preferenza. Lo stesso discorso sono le poste. Tu vai alle poste a ritirare, io quando vado a ritirare la pensione, ci sono questi neri, loro per aggredirlo, gli impiegati stesso li chiamano prima di te, che ti è arrivato molto prima di loro, per dire, e mandano via loro. Boh, non è possibile. Ma c'è la precedenza per il colore della pelle? Ma io non lo so. E comunque sono ben prepotenti, specialmente i nigeriani. Non tanto, i senegalesi sono bravi, perché hanno un buon carattere, scherzano, ridono, ma i nigeriani sono mari di urraio, proprio di quelli primitivi, selvatici, proprio cattivi. Sì, sì, sì. Poi ci sono i sardi, i catalesi imbecilli, se ne vanno anche la festa, questa gente, io di solito, quando vado a prendere la pensione, alle poste centrali, trovo sempre dei neri. Beh, l'altra volta ce n'erano cinque neri, tutti insieme, e tutti quanti avevano il salottino delle monete, no? E tutta roba da 5 centesimi, 10 centesimi. Li hanno chiamati questi deficienti, tutti quanti aspettando, e loro volevano cambiare i soldi, sono andati lì per cambiare questi soldi. L'impiegata, moneta per moneta, li ha dovuto contare tutte queste monetine che non finivano mai già, ma c'era uno addirittura che aveva roba di 1300 euro, aveva tutte le monetine. Si può immaginare a 5 centesimi per volta, a 10 centesimi per volta, quanto tempo ci è voluto per contarlo, o Gianni, te lo rendi conto? E i catanesi lì, come tanti pesci, arrivati prima di loro, aspettando la loro comunità, perché? Perché questi deficienti, gli impiegati, appena che li vengono, li chiamano, proprio li chiamano loro, no? Perché? Vieni, li chiamo subito e li servono. Ora dimmi, per dire, io mi ricordo che, non so se tu ti ricordi, in via Pascoli, nell'angolo con via, che via è quella lì? Vabbè, di fronte al rifornitore, dove c'è il rifornitore a fianco, adesso c'è un bar Manuela mi pare si chiama, lì c'è la signora Franceschina, un negozio di alimentari. E cosa facciamo? Anche lì gli hanno portato le monetine? No, quando entravano gli zingari, lei gli dava tutto quello che gli chiedevano perché li temeva. Un giorno c'era mia madre e ha detto, cosa sta facendo c'era Franceschina? E non glielo do perché io ho paura. Se la mandati malamente, mia madre ha detto, andatevene via, se non sto chiamando la polizia, forza, e ce l'ha mandati via. E tanto poi magari tornavano e lì aveva paura, gli dava pasta, gli dava tutto quello che gli chiedevano, tutto gratis. Incredibile, lo so, quindi poi non ne parliamo, quindi sono proprio tutta gentaglia, tutta gente ladra. E poi non la ragione, quando sono lì in università, a questa cosa gente le volevo andare via, e questi imbecilli ragazzi, tra degli italiani che li difendono, ma è una cosa guerrita, soprattutto quelli della sinistra, ragazzi, tutti quanti difendendo questa gentaglia, perché questa è gentaglia che viene da fuori già, è gentaglia, non c'è niente da fare. Se loro sarebbero venuti qua, a parte fatto ragazzi, che stanno vivendo dalla sopra le nostre spalle. E poi tornando a questi neri, poi fatto l'imbecille, il catanese, e gli dà anche l'offerta, perché c'è uno in ogni angolo di strada, ogni 100 metri ne trovi uno. E ci sono quelli deficienti che gli danno anche l'offerta. Gli sembrava una bomba, Giovanni, ma quando vanno ti rendi conto che lo stiamo mantenendo noi a questo qua. Noi italiani che paghiamo le tasse, le stiamo mantenendo, ma? E tu gli dai anche l'offerta, gli dai. Ma non ti innamori, papà, dire che sei un grandissimo imbecille. Ma si sa il perché, perché sono cooperative formate dalla sinistra, quelle lì, e praticamente ci hanno i guadagni. Quando loro restano qua, loro guadagnano queste cooperative che gli danno da mangiare, eccetera, no, ci hanno i guadagni. Normale che siano così, no? Difendano queste cose perché ci hanno l'interesse di sotto. Sì, ma lo so, quello c'è stato. Ma per dire come sono, no? Se questo nessuno gli avesse dato l'offerta, io penso che non si sarebbero messi in ogni negozio di Sassari a chiedere la voce, davanti alla porta così, boh, non è possibile, una vergogna. Io posso capire quelle che magari stanno vendendo, hanno un tappetino, mettono la cosa per terra, ma questi che non hanno niente da vendere, che si mettono lì con questo bicchiere di plastica a mettere i soldi dentro lì, ma non tenne. Sono gli imbecilli che danno le offerte. Tu mi dirai, ma non hai cuore, non sei generoso con questa gente. generoso. Sa perché devo essere generoso dal momento che lo stiamo mantenendo noi? Se ne passano 35 euro al giorno, che le danno la scheda telefonica, le danno, e tu li vedi, fanno di tutto, odia di tutto, vanno in giro con le cuffie ascoltandosi la musica col cellulare da 700-800 euro. Si fa buffonesi, addirittura oggi con gli abiti firmati ne ho visto di questa gente, non è possibile già, eppure l'italiano è deficiente e gliel'hanno offerte anche, non tennarli. Giù, ti devo lasciare, dai, che devo portare giù il cane. Ci sentiamo, grazie per il QSO e buona serata, dai, ci sentiamo, ciao. Ok, ciao, grazie a te, ciao, ci sentiamo, ciao.